A tempo di sport di Ranzini. Buon pomeriggio. Una favola e un mistero, direi. La favola è ovviamente quella del Barça, che ha aggiunto niente meno che la Coppa Campione alla Liga e alla Coppa di Spagna nel mese di maggio più glorioso della sua storia, che pure di trofei è abbastanza ricco. Il mistero è quello del Manchester United, perché capita davvero di rado che una squadra inglese si arrenda, non dico senza combattere, ma quasi, e comunque non riesca nemmeno a provarci a ribaltare una situazione di inferiorità, di impaccio. Allora consegnerei questa, in attesa poi delle vostre opinioni e dei vostri interventi, e prima di darvi molti numeri, molte cifre che riguardano ieri sera, oltre poi a voci, suggestioni e ripassi, vorrei affidare subito questi due temi a Fabio Tavelli, che è in collegamento con noi ancora da Roma. Fabio, buongiorno. Buongiorno Gigi, un saluto a tutti. Senti, hai detto molto bene, anche perché io ho avuto la fortuna ieri di vivere la partita da bordo campo, quindi di stare a pochi metri dai protagonisti, e la sensazione che io ho avuto per tutta la partita è stata che il Manchester United non avrebbe mai segnato. Cioè, sinceramente mi ha dato l'impressione di una squadra che non aveva ieri le forze, non aveva ieri la capacità di provare a far male al Barcellona, mentre invece il Barcellona mi ha sempre dato la sensazione, tranne forse nei primi 9 minuti di partita, di essere padrona totalmente del campo, tatticamente, fisicamente e anche moralmente padrona. E allora cominciamo dal mistero. Se ne è parlato già ieri sera, noi siamo andati nel nostro piccolo, siamo andati avanti un paio d'ore dopo la partita con molti interventi di ascoltatori, con analisi, con Nicola Roggero, che ci ha provato anche lui da antico conoscitore e sodale del Manchester United a venirne a capo, ma non siamo andati da nessuna parte, perché è ovvio che un clima come quello italiano e romano in particolare di questo periodo è più congeniale a Barcellona che al Manchester, ma è altrettanto vero che il caldo al massimo ti liquefà a gioco lungo, ma non è vero che subire un gol dopo 9 minuti in una finale contro una grande squadra rappresenta uno shock da smaltire, magari non nei minuti successivi, però è anche vero che da lì alla fine dà l'impressione di una squadra, adesso non vorrei dire drogata al contrario, ma insomma di una squadra sotto valium. Il Manchester United proprio non ci assomiglia, ecco. No, quello certamente no. Guarda, posso dirti, per aver vissuto questi 4 giorni a Roma, che il caldo dei primi 2 giorni, di lunedì e martedì, non era paragonabile a quello che c'era ieri sera. Ieri sera la temperatura era un po' umida, ma era ideale, certamente ideale per giocare, quindi non imputerei a nulla il caldo. Sinceramente, il Manchester United è arrivato un giorno prima qui e forse ha preso un po' di caldo lunedì. Sì. Quando mi hanno detto che Ferguson voleva portare la squadra al Flaminio alle 2 martedì per fare una rifinitura prima della rifinitura vera all'Olimpico e della ricognizione dell'Olimpico, io sinceramente non ci credevo. Poi invece mi hanno detto che lui li ha portati davvero al Flaminio, hanno fatto solo un po' di stretching perché lì sono accorti che c'erano 35 gradi e non potevano fare nulla, ma sono stati lì non più di mezz'ora, quindi non è possibile che la squadra si sia lessata in quella fase. Credo che le verità siano un po' più da un punto di vista tecnico-tattico, cioè nel primo tempo il centrocampo del Manchester United, ripeto, a parte i primi 10 minuti, è stato totalmente in balia del Barcellona, così come nel secondo tempo. Credo che la qualità complessiva di Carrick, Anderson, del Giggs di ieri sera e anche di Park sia stata infinitamente più bassa rispetto a quello che riuscivano a produrre Xavi e Iniesta, che Guardiola abbia indovinato la mossa di mettere Sergio Busquets davanti alla difesa e di sacrificare Yaya Touré accanto a Piquet, e che ora io non voglio criticare Ferguson, ci mancherebbe altro, però vedere per tanti minuti Wayne Rooney confinato sulla fascia, vederlo rincorrere Leo Messi, non riuscire mai a trovare una posizione giusta per Cristiano Ronaldo, buttare dentro attaccanti su attaccanti come a volte ho visto fare ad altri allenatori, sì, qui in Italia, molto celebrati, non mi è sembrata la scelta giusta, onestamente, vedendo la qualità delle rose in campo, ma soprattutto la differenza di classe e di esperienza tra la panchina del Manchester United e quella del Barcellona. Io mi aspettavo onestamente un Manchester United diverso, soprattutto qualche correttivo più incisivo a inizio secondo tempo, perché poi in fondo nel primo il Barça poco alla volta ha preso in mano il pallino del gioco, ma cioè, intanto il risultato era ancora sempre in bilico e poi comunque non era, a parer mio perlomeno, non era, forse perché ne abbiamo visti di troppo belli quest'anno di Barcellona, ma insomma non era nella sua versione ottimale. Mi sarei aspettato inizio secondo tempo che proprio quel centrocampo che girava a vuoto venisse cambiato, cioè il primo cambio, a parer mio, insomma, mi aspettavo Scholes, cioè mi aspettavo un regista aggressivo, uno che poi la sua pedata l'ha tirata 5 minuti alla fine, ma quando ormai non serviva più a nulla. A inizio secondo tempo, beh, insomma, mettiamola magari anche un po' sul piano fisico piuttosto, ma vediamo di provarci. E invece una punta in più e poi un'altra ancora, insomma, ha consegnato definitivamente il centrocampo agli altri, che già non ha bisogno, insomma. Ma anche perché, Gigi, nonostante il Manchester sia comunque una grande squadra anche a centrocampo, ieri la differenza di qualità è stata spaventosa a favore del Barcellona. Oltretutto, continuando a mettere attaccanti, lui non ha fatto altro che intasare tutte le corsie e lì non c'era più spazio per passare, perché per tenere Tevez, Berbatov, Ronaldo e Rooney tutti su una linea abbastanza simile, poi gli spazi diventavano ancora più ridotti. La prova provata è che Valdés ha fatto una sola parata su Cristiano Ronaldo nel secondo tempo, ma stiamo parlando di una partita che era già 2-0 e quindi non c'è veramente difesa nei confronti del Manchester United. Cioè il Barcellona ha vinto, meritato di vincere, e ripeto, avessero giocato fino alle 3 del mattino, secondo me il Manchester United non avrebbe segnato mai un gol. Allora, questo è il mistero, passiamo alla favola. È una favola che nasce grosso modo un anno fa, quando il Barcellona si ritrova alla fine di una stagione molto ma molto deludente, si chiude il corso tecnico di Rijkaard, l'avventura di Rijkaard, il Barcellona è fuori dalla Champions, nel senso che deve fare i preliminari e comincia a guardarsi intorno, questo presidente Laporta, per vedere che cosa fare. Ecco, continua tu. Si guarda in casa, perché Guardiola allenava la squadra B del Barcellona. Guardiola è inutile che lo ripetiamo, un prodotto vero di globuli blaugrana, e quindi è un ragazzo che certamente ha studiato per fare l'allenatore, certamente era già quasi un allenatore in campo, e quindi non gli è venuto difficile essere un allenatore in campo, essere un allenatore dalla panchina. A me ha impressionato moltissimo il fatto che alla fine dei festeggiamenti ieri lui sia rimasto ancora in campo per molti minuti insieme ai suoi collaboratori, insieme al massaggiatore, insieme al suo vice, e così tranquillamente a parlare, come se volesse prolungare il piacere di una serata, come non volesse andar via, volesse godersi di più questa cosa. Lui insomma è uno che in conferenza stampa risponde in italiano se gli fai una domanda in italiano, in inglese se gliela fai in inglese, in spagnolo se la fa in spagnolo, in catalano se gliela fa in catalano. Quindi è chiaramente una persona culturalmente molto preparata, molto pronta, molto sveglia. Ha avuto il vantaggio di poter avere un credito non illimitato ma molto ampio quando nelle prime 2-3 partite della stagione il Barcellona non andava benissimo, e soprattutto ha fatto un patto con i giocatori facendosi riconoscere come allenatore, cioè lui ha un rapporto splendido con i giocatori, ma i giocatori sanno che lui è il loro allenatore, non è un compagno di squadra semplicemente vestito in maniera diversa. E questo credo sia un passaggio decisivo per chi è stato un grande giocatore e vuole diventare anche un grande allenatore. Allora, si vede certamente la mano di un tecnico nel solco, peraltro, di un gioco collaudato da parte del Barcellona, perché non è che Rijkaard poi avesse un tipo di calcio così diverso, e Rijkaard a sua volta l'aveva mutuato da Cruyff, quindi da Cruyff allenatore e prima ancora da giocatore. Sì, ma questo è un marchio, Gigi, un marchio che va avanti da tantissimi anni. Da almeno 30 anni. Da cambiano quando gli interpreti, ma è chiaro che la velocità di crociera può cambiare se hai un Ronaldinho al massimo o Ronaldinho declinante, se hai questi Xavi e Iniesta, che sono giocatori che negli ultimi 3 anni sono esplosi, e sono esplosi perché sono stati formati all'interno di una cantera con una filosofia che è completamente diversa da quella del Real Madrid. Cioè, Real Madrid prende o prendeva grandi campioni e li innestava cercando ogni volta di ricostruire. Il Barcellona ha comunque sempre un suo marchio ed è come una carrozzeria sulla quale tu ci metti gli accessori, però la carrozzeria rimane sempre quella. Certo. Daniele domanda alla Sassuolo: ma secondo voi è merito di Guardiola o è merito dei giocatori? Queste sono le domande famose epocali che non avranno mai risposta. Io credo che con quella rosa e con quei giocatori anche altri allenatori farebbero bene. Credo però che con un libero pensatore come Guardiola, che era un Oxavi appena un po' più lento, no? Da giocatore, sì, direi. Sì, è un po' più arretrato. Un po' più arretrato, un po' più geometrico e un po' meno playmaker, se vogliamo. Sì, ma sì. Era quel tipo, grosso modo, di giocatore. E che è una fantastica persona, perché basta pensare alla dedica che ha fatto ieri sera a Paolo Maldini, sì, alla dedica che aveva fatto prima ancora e alla telefonata a Carletto Mazzone. Se vi ricordate l'abbraccio a Hiddink un minuto prima che pareggiasse Iniesta a Londra, quando stava per uscire dalla Coppa dei Campioni. Sì, era virtualmente fuori. No, e fu inquadrato, si trovarono vicini fuori dalla cosiddetta area tecnica, si guardarono. E Guardiola, che stava per finire fuori in quel momento, mancavano due minuti alla fine, rivolse una specie di abbraccio a Hiddink molto caloroso. Beh, insomma, credo che poi si sia campioni in tanti modi. Mi pare che Guardiola lo sia a pieno titolo e a tutto tondo. Va bene, il domandone finale è questo: secondo te che cosa può fare il Barcellona? Che piccolissimo inciso, tra poco poi con l'aiuto di Marco Beninazzo vedremo la Coppa Campioni anche da un'altra angolazione, da un'angolazione economica, finanziaria, eccetera, ma diciamo che una Coppa come quella di ieri frutta un centinaio di milioni di euro la società, sì, che la vince, no? E quindi, sì, grosso modo un po' di dotazione te la porta. Come può investire secondo te una parte di questi quattrini la società per ripartire ancora più forte? Ma io credo debba necessariamente un po' allungare questa squadra, perché comunque ci saranno altri impegni, ci sarà la Supercoppa, ci sarà il Mondiale per Club, ci saranno tutta una serie di altre cose e ci sarà una pressione certamente più alta. Quest'anno il Barcellona ha avuto degli infortuni, ma mai come quest'anno Messi ha potuto giocare con continuità. Credo che i ricambi non siano in questo momento all'altezza dei titolari, cioè Eitor Gudjohnsen non è un giocatore in grado di sostituire Eto'o. Credo anche che un po' di logorio a Thierry Henry stia arrivando, e quindi Thierry Henry andrà centellinato molto nella prossima stagione. Penso che un paio di acquisti importanti il Barcellona li debba fare, uno in attacco e uno in difesa, non necessariamente subito dei titolari, magari anche dei giocatori di prospettiva. Io non credo che si debbano investire 100 milioni di euro per prendere Benzema, che potrebbe andare anche a dare qualche problema di equilibrio anche tattico alla squadra. Credo che la squadra vada bene così, e ripeto, Barcellona è arrivato in finale con un gol di Iniesta all'ultimo minuto, si è giocato la finale senza Marquez, con due giocatori squalificati come Vidal e Dani Alves, la rosa non dava delle grandissime certezze di ricambio, quindi allungare un po' la panchina e renderla un po' più profonda. E poi possiamo smetterla anche di parlare, perché questi vinceranno tutto, quindi certo, sarà difficile contrastarli. Sì, sono già abbastanza forti così. Grazie a Fabio Tavelli, buon rientro. Grazie, un saluto a tutti voi. Allora, un po' di numeri di serata e di giornata. Gli ascolti, ieri sera Rai 1 ha ottenuto quasi 10 milioni di spettatori, col 36% di share, a cui poi vi hanno aggiunti quelli di Sky. Il bilancio un po' meno positivo invece è che a Roma e dintorni tutti i controlli effettuati prima e dopo la partita hanno portato a 24 arresti, a 69 denunce e a 80 persone denunciate per aver violato l'ordinanza di divieto di somministrare bevande alcoliche. Non ha scherzato a Barcellona, perché la grande nota di festa sulle Ramblas e in Plaza Catalunya hanno fatto registrare un bilancio di ben 119 persone fermate e 153 feriti, perché era già successo sia per la Liga che per la Coppa di Spagna. I catalani amano far festa per il calcio, ma il senso della misura fuori dal campo non ce l'hanno sto granché. Sentiamo un ascoltatore campione prima dell'intervallo. Davide Verona, buongiorno. Buongiorno, io volevo andare un po' fuori dal coro e parlare di un argomento completamente diverso. Io ho visto che è stato un incidente sul lavoro, uno stabilimento della famiglia Moratti. La famiglia Moratti ha speso nella sua gestione circa un miliardo di euro, se i conti non sono stati fatti male, se investisse qualcosina anche per i suoi lavoratori, e spero che i loro colleghi dell'Inter, insomma, diano una mano economicamente a queste persone che sono mancate lavorando duramente. Tutto qua. Grazie Davide. Torniamo insieme, ci sono un altro paio di interventi prenotati, abbiamo anche delle voci da ascoltare di ieri sera. Anzi, comincerei con un omaggio a Pep Guardiola, che è certamente l'uomo del giorno in campo europeo, in campo mondiale, perché non c'è dubbio che ci sia il suo sigillo su questa impresa, e non c'è dubbio nemmeno che le sue dichiarazioni del dopo partita, soprattutto per noi italiani, abbiano avuto un eco particolare, anche perché sono state inattese da una parte e davvero di grande classe dall'altra. Sentiamo questo collage di Pep Guardiola. Abbiamo fatto una stagione meravigliosa, abbiamo venuto qua con tante difficoltà perché ne avevamo tre difensori titolari, non c'erano, ma abbiamo fatto una buona gara, sono molto felice. Come giocatore la prima era molto importante, che Barcellona non l'aveva mai e l'abbiamo vinto per prima volta, e per questo per la società, per Catalogna è stato molto importante. Noi già ce ne abbiamo tre, non è così strepitoso, ma ci stiamo avvicinando, no? come le grandi altre grandissime squadre. Congratulazione, felicitazione tanto alla gente e alla squadra. Credo sinceramente che il fatto che pochissime persone hanno fatto quello non può rovinare quello che ha fatto. Credo sinceramente che il giocatore ultimo 20-25 anni più forte che ha avuto. È un esempio per tutti noi che andavamo dietro. Mi auguro che si ripensa e viene a Barcellona a fare un'esperienza a giocare negli ultimi anni. Noi lo vorremmo volentieri. Le volevamo fare in questo paese così meraviglioso che mi ha accolto così bene, soprattutto a Brescia. Volevo fare la dedica a lui, che ha fatto tanto per il calcio, e gli auguro un futuro splendoroso in quello che farà nella vita. Pep Guardiola ha chiamato Giovanni Torino, buongiorno. Giovanni è caduto la linea. Domenico Prato, buongiorno. Domenico, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ascolti, ieri secondo me, al di là del strepitoso attacco del Barcellona, si è notata una cosa tecnica, cioè che gente, difensori così alti, robusti, forti tecnicamente, sono attaccabili palla a terra. In effetti solo Messi da solo per vie centrali in alcune circostanze si è portato al passo tutta la difesa, perché quello secondo me è il modo in cui attaccare difese forti fisicamente e non tecniche, insomma. L'ascolto per radio, grazie. Ma adesso non tecniche, Rio Ferdinand e lo stesso Vidic, ci andrei un po' pianino. Quello è il modo di attaccare, è certamente il modo di attaccare una squadra così fisicamente forte, anzi strapotente, però ti riesce soprattutto se gli altri non sono in serata, perché sennò puoi anche spuntarti, insomma. È stata una partita strana, a parer mio, molto, perché in quei 9 minuti in cui il Manchester è esistito, in compenso non era esistito il Barça, ma nella maniera più assoluta, se volete rivedervi i filmati, sono 3 o 4 palloni messi a lato con dei passaggi sbagliati, ma da dilettanti allo sbaraglio. Cosa significa? Che erano emozionati anche loro, perché quando ti giochi una finale di Coppa, il controllo nervoso, evidentemente il controllo emotivo iniziale, è molto ma molto difficile. Lo dimostra il fatto che la partita è finita al 9° minuto praticamente, per chi sembrava la squadra più collaudata e la squadra più forte dal punto di vista psicologico, è durata 9 minuti, ma gli altri in quei 9 minuti erano stati imbarazzanti e hanno fatto fatica, anche per essere il Barça con quella proprietà di palleggio, hanno fatto fatica a capire che la superiorità loro c'era, cioè che l'inferiorità altrui c'era, e che quindi potevano anche concedersi qualcosa di più disinvolto. Non è stata nemmeno la miglior versione del Barça in questa stagione. Certo, è stata una versione che è bastata e avanzata per vincere un finale di Coppa e per mettere in vetrina ancora una volta due o tre giocatori veramente di una categoria. Cioè, intanto Iniesta e Xavi, vabbè, Messi è inutile spiegare il fiato. Scrive molto bene, per esempio, Armando Russo da Taranto, che scrive: da Messi ci si aspettava tutti una serpentina, una punizione, una palombella maligna, ma lui invece ci ha voluto stupire ancora un altro po', perché in una serata un po' grigia, e su questo ha ragione, viste anche le attenzioni che gli aveva riservato, è spiccato in volo tra due giganti, coordinandosi solo ed esclusivamente in funzione della porta. Ecco dove si vede che lui è un fuoriclasse, che fa fare agli altri la figura dei giocatori normali. È verissimo, perché è stato anche un capolavoro di coordinazione una volta che già era in aria, quasi un avvitamento per colpire la palla leggermente più lenta di quello che lui immaginava, per colpirla nella maniera giusta e mandarla nell'altro angolo. Un capolavoro. Paolo, provincia d'Ancona, buongiorno. Buongiorno Garanzini, a lei è sempre un piacere ascoltarla. Sì. Purtroppo il mio intervento non è tanto originale perché mi avete un po' anticipato, nel senso che il Manchester secondo me si può stare che sia andato sotto in quella maniera, ma non mi aspettavo un ingresso così tardivo prima di tutto di Paul Scholes e poi l'intervento della panchina così, cioè la panchina del Manchester paragonata alla panchina del Barcellona gli dava due giri e questo uso non proprio azzeccato di... dell'allenatore che l'ha messa nettamente in difficoltà, poi soprattutto Scholes che è entrato proprio in una manciata di minuti è inspiegabile, era proprio lì al centrocampo che la stava perdendo la partita. Ascolto per radio, grazie. No, no, ma sono osservazioni che abbiamo fatto un po' tutti ieri sera, perché era palese, no? Questo imbarazzo da parte di una squadra che non siamo abituati a vedere imbarazzo, siamo abituati magari a vedere soffrire, ma proprio quando soffrono combattono, anzi a maggior ragione, quando non riescono a imporre la loro superiorità combattono, e invece questo gol gli ha tagliato le gambe, gol anche in parte regalato, intendiamoci, perché può far di meglio Evra su quella conversione di Eto'o, può chiudere un po' più puntualmente Vidic che gioca in genere a centrale da quella parte e può essere un pochino più attento Van der Sar a non... è vero che l'altro calcia di punta proprio per rubare il tempo e calcia in quel modo che è difficilissimo neutralizzare, però la palla gli passa proprio un po' sotto e dalla sua parte sul palo vicino. Senti, ho detto Evra, potremmo forse sentire un suo commento? No, sentiamo prima il presidente Laporta, perché ripeto, un anno fa quando questa favola adesso sappiamo che stava per cominciare una favola, ma un anno fa il Barcellona era davvero in crisi e Laporta stava per metterlo davvero alla porta, i suoi compagni azionisti e il grande popolo del Barça, invece alla fine ha avuto ragione lui. Romandrà in eterno nella storia del Barcellona, e la città delle sette colline, la città eterna e veramente los romanos y los italianos, estoy muy agradecido, con congratulazioni, remerciamiento, ¿no? Perché nos han recibido molto bene y hemos trovato tifosi supportando el Barça, ¿no? Dando l'appoggio al Barça, y veritablemente estic molt molt agraït. Muy agradecido a la ciudad de Roma, a Italia y a todos los italianos, porque nos hemos sentido muy queridos. Hemos ganado una final preciosa contra un rival buenísimo que es el Manchester United, y todavía tiene esto más mérito, y ganarla en Roma es un orgullo. De Guardiola, de los calciatores, yo solo presto mi ayuda cuando puedo, ¿no? Cuando puedo. Ma sé la victoria del buen fútbol, sé la victoria de una forma de capítulo el fútbol, la victoria de Pep Guardiola, el staff técnico y los calciatores. Beh, non c'era bisogno di traduzione, mi sembra che quando è così, quando è cantato così, lo spagnolo sia, il catalano tra l'altro, sia particolarmente comprensibile. Paolo Bari, buongiorno. Sì, salve Garanzini. Dica. Io volevo sottolineare, se lei è d'accordo invece, la differenza tra i connotati delle due squadre, cioè la grande squadra che è stato ed è il Manchester di Ferguson, ma che non ha il connotato dell'irresistibilità. A me la partita di ieri ha ricordato un po' anche quella con Milan di qualche anno fa, nella quale anche lì il Manchester praticamente non ebbe modo di emergere assolutamente, per cui resta una squadra che nel momento topico, se ha di fronte a sé una squadra qualitativamente superiore, effettivamente scompare, per cui resta una grande squadra ma non ha questo connotato di irresistibilità alla quale si avvicina sempre di più invece il Barcellona, e alla quale magari è stato vicino, magari per poche partite l'anno, il Milan di Ancelotti qualche anno fa. Sì, la squadra perfetta, in realtà lei sta dicendo che la squadra perfetta, la squadra imbattibile, non esiste, perché se vogliamo trovare un'altra partita negativa del Manchester prima di ieri dobbiamo tornare alle semifinali due anni fa. Io credo che qualunque supporter farebbe firma per sbagliare due partite in tre anni, perché stiamo parlando di tre stagioni diverse, quindi insomma, se può fare tutto sommato. È vero poi che le caratteristiche, che se l'avversario in serata di grazia ha le caratteristiche di questo Barcellona o di quel Milan, sono caratteristiche fatte apposta per creare difficoltà a una squadra come il Manchester. Questo può essere un ragionamento. Giovanni, Torino, buongiorno. Sì, buongiorno Antonio Garanzini. Dica. Colti, io volevo fare una domanda, ma che cuore ha sto ragazzo, sto Pep Guardiola? Cioè, è un signore da altri tempi. Io ho 36 anni, per me è un ragazzo, lui ha 38 anni. Come questo qui non ne ho mai sentito. Cioè, 24, 36 ore prima di entrare nella storia per vincere tutto quello che ha vinto fino adesso, non aveva altri pensieri in testa che chiamare il suo ex allenatore Mazzone per invitarlo allo stadio. Mazzone ha detto che ha pianto appunto per questo gesto qui. Appena entrato ieri sera nella storia ha dedicato la coppa a Paolo Maldini, cosa che tutti quanti dovremmo solamente stare zitti e fargli tanto di cappello a questo ragazzo. Mi ricordo un aneddoto quando giocava nel Brescia, velocissimo, lui era in campo con la fascia da capitano perché Roberto Baggio era in panchina. Al secondo tempo è entrato Roberto Baggio, non per cambiare Pep Guardiola, lui si è avvicinato al bordo del campo, si è tolto la fascia per ridarla a chi era di diritto. Dire il capitano e lui ti ridò i gradi, cioè questo qui è un grande. Cioè noi in Italia dove ce li sogniamo gente così? Ma no, non è necessario importare cialtroni, cioè si possono, perché in giro per il mondo ci sono anche dei signori evidentemente e che magari sono allenatori anche più bravi, certamente no, non creda che di Guardiola ce ne siano tanti dietro l'angolo, non è che crescono per germinazione spontanea, ogni tanto se ne trova uno, per fortuna qualcuno c'è, l'importante è che faccia scuola quello che il suo presidente ha attuato, abbiamo sentito prima alla porta, e cioè la valorizzazione massima estrema del vivaio e poi possibilmente la promozione a leader della prima squadra di chi quel vivaio lo ha cresciuto e lo ha fatto maturare. Questa è la grande lezione che dovremmo importare dalla Catalogna. Se poi c'è anche la classe e l'eleganza di Guardiola nei rapporti umani, beh, insomma, tanto di guadagnato. Abbiamo visto la Coppa dei Campioni dal punto di vista tattico, tecnico, del fascino, della suggestione, della leggenda, dell'albo d'oro. Adesso la vediamo in controluce, alla maniera del Sole 24 Ore. Bentornato Marco Beninazzo. Buon pomeriggio. Il titolo di ieri era Champions da 1.2 miliardi di debiti, gli inglesi in rosso, gli inglesi, cioè lo United in rosso di 780 milioni. E poi il catenaccio completava il concetto: il fisco catalano aiuta i blaugrana. Allora, diciamo subito che dal punto di vista dell'etica economica ieri ha vinto il migliore, la squadra che meritava di più, il meno peggiore, Il Barcellona ha solo 440 milioni di debiti consolidati contro appunto gli 800 e passa del Manchester, perché anche lì poi è difficile ricostruirlo esattamente perché c'è una catena di comando del Manchester che parte da Manchester e finisce nel Nevada negli Stati Uniti, sì, dove hanno sede queste holding della famiglia Glazer che controlla appunto il Manchester. È stata una bella vittoria quella del Barcellona anche dal punto di vista, come dicevo, dell'etica economica, anche perché ha vinto una squadra che ha rinunciato allo sponsor quest'anno e per i prossimi anni ha sulle magliette la scritta UNICEF e quindi rinuncia a 15-20 milioni di introiti da sponsorizzazioni, anche una squadra che appunto ha valorizzato il vivaio e ha molti giocatori del vivaio in campo. Però direi che le buone notizie, le belle notizie, la bella favola del Barcellona finisce qui, perché se si va a guardare un po' meglio nei bilanci, soprattutto nelle regole che hanno permesso a Barcellona di diventare la squadra che è, un po' di nei, per dire nei, ma forse anche qualche cosa in più di negativo, ci sono. Per esempio il Barcellona ha una struttura di associazione, sappiamo, abbiamo raccontato anche più volte in questa trasmissione, che ha, come per il resto del Real Madrid, moltissimi soci o associati che versano anche piccole quote, più di 150.000 sono quelli del Barcellona. Sì. Ha una struttura associativa, non è una società che è costretta a macinare utili, non ha uno scopo di lucro obbligatorio, uh-huh, e quindi può anche permettersi di avere appunto sulla maglietta lo sponsor dell'Unicef, non di una qualche, certo, impresa. Il Barcellona è anche vero, è vero che ha, appunto, come dicevamo, tutti questi giocatori del vivaio, ma è anche vero che può permettersi in attacco tre giocatori che si chiamano Messi, Henry ed Eto'o, e può permettersi questo perché in Spagna c'è una tassazione per i giocatori stranieri che è del 24%, contro una tassazione, insomma, che supera ampiamente il 40% in Italia o in Inghilterra. Questa è una cosa che hanno spesso accentato i dirigenti di casa nostra, no? Sostenendo che c'è questa disparità di trattamento. C'è questa disparità di trattamento anche perché proprio la forma particolare di associazione che ha il Barcellona le permette di avere una serie di vantaggi fiscali. Per esempio, le quote che versano i singoli associati non sono oggetto di tassazione in Spagna, e quindi in qualche modo incentivato questo fenomeno. Spagna o Catalunya? Cioè in questo caso? In Spagna. Spagna. Quindi anche Real Madrid ha lo stesso vantaggio. Sì. Oppure, per esempio, le plusvalenze che possono essere ottenute dalla società vendendo i singoli giocatori non sono tassate, a differenza che in Italia, per cui le squadre che cercano di valorizzare il vivaio e poi vendere giovani campioni, quando li vendono devo pagare l'IRES e l'IRAP, ed è un incentivo in più che hanno gli spagnoli per culare i vivai, e lo fanno in maniera molto redditizia. Io credo, quindi, le strade, uniformità, cioè quali possono essere? O intervento dall'alto, no, dell'UEFA, ma intervento drastico, no, che chiudiamo le gabbie, oppure cercare attraverso la UE di arrivare a un'uniformità fiscale, per esempio. Le vie di uscita sono due e sono sempre, ed è sempre più necessario, a mio avviso, fare in fretta. Quella di ieri sera è una partita storica perché rappresenta, secondo me, un bivio nel calcio europeo. L'anno scorso a Mosca Platini aveva detto la famosa frase: spero di non vedere più in finale due squadre indebitate. Quest'anno si è iniziato a fare qualcosa, c'è una commissione che sta studiando, e la UEFA che sta studiando come rimediare a questa situazione. Io credo che ci sia un grave problema per la sportività del mondo calcio. Certo. Se negli ultimi 5 anni, nelle semifinali di Champions League, ci sono arrivate sempre le stesse squadre, inglesi, spagnole, con l'eccezione del Milan, che in quanto a gestione di equilibrio finanziario non è proprio un esempio da indicare, è assolutamente, diciamo, negativo per l'intero movimento, perché quelle squadre che hanno raggiunto, grazie all'indebitamento, una posizione dominante, possono permettersi grandi campioni, possono però accedere, appunto, ai livelli più alti della Champions League e accaparrarsi quella torta di oltre 300 milioni di euro, che rappresenta, diciamo, il montepremi totale tra diritti TV, merchandising e premi della competizione, la massima competizione continentale. E quindi altre squadre, a meno che non arrivi un magnate russo o arabo ad acquistarle e a spendere milioni e milioni di euro, non avranno mai la possibilità concretamente di sperare di arrivare a questi livelli. E immagino che, diciamo, ripeto, dal punto di vista sportivo e dell'interesse per la competizione e il mondo del calcio, il fatto che ci sia una oligarchia di squadre inglesi, qualche spagnola, un'italiana, fa sì che l'interesse sia molto scarso. Già sono noiosi i campionati nazionali, nel senso che lo possono vincere in Italia in 3, in Spagna in 2 più qualche rarissima eccezione, in Inghilterra in 2-3, in Germania e in Francia. E non è un caso, perché proprio in Germania e in Francia abbiamo delle regole più severe dal punto di vista contabile e fiscale, e lì c'è più interesse. Non so se è un caso o meno, se è una coincidenza o meno. Ho qualche dubbio che sia un caso. Sulle soluzioni, la UEFA può stabilire delle griglie di ammissione alle competizioni internazionali, perché poi nei singoli paesi c'è la competenza delle federazioni. Ma, come dicevo, non può fare tutto la UEFA, perché esistono regole di governance societaria, oppure appunto fiscali, che sono singole dei singoli paesi, e non c'è la possibilità da questo punto di vista della UEFA di intervenire. Deve essere appunto Bruxelles a cercare di in qualche modo armonizzare le regole per i vari paesi. Senti un po', lasciamo stare il discorso, perché ieri poi questo servizio del Sole era particolarmente articolato, c'è il famoso esempio del basket americano con salary cap, eccetera, non andiamo troppo lontano, anche perché oggi manca il tempo. Ricordiamo che razza di affare sia, l'ha segnalato oggi Gianni Dragoni, mi pare, sul numero di oggi del Sole, che razza di affare economico sia arrivare in finale come campione, già arrivarci in finale, vincerla, e comunque quale sia il montepremi di questa... di questa manifestazione. Come detto, di oltre 300 milioni di euro, di cui circa 100-120 se li accaparra la squadra vincitrice. Un giro di affari che appunto parte dal merchandising, dai premi che riconosce la Champions, ma soprattutto dai diritti TV. E proprio il fatto, ripeto, che ci siano regole tante o diverse, ma che consentono per esempio alle squadre inglesi di non avere un obbligo di ricapitalizzare ogni anno e quindi accumulare questi grossi debiti, ma di poter ingaggiare grazie a questi grossi debiti i campioni che conosciamo, gli consente anche di accaparrarsi questi montepremi e quindi continuare a dominare in maniera incontrastata. Per fare un semplice esempio, per esempio, se consideriamo un giocatore di medio livello che guadagna, non so, 2 milioni di euro all'anno, quindi parliamo di giocatori di fascia bassa per una squadra come Barcellona e Manchester, quel discorso sulla differenza delle regole fiscali è chiarificata da questo. Quei 2 milioni, perché i giocatori contrattano a netto il loro ingaggio, equivalgono a circa 2 milioni e 7 di costo annuale per una squadra spagnola, mentre sì, in Italia lo stesso costo è di 3 milioni e 7. E quindi quei vantaggi di cui dicevo prima sono diventati ormai insostenibili. Platini se n'è accorto. Io mi auguro che si intervenga non tra 3-4 anni, come ha detto Platini, ma che si faccia qualcosa molto prima, altrimenti l'andazzo è quello, per esempio, che colpirà sempre in Spagna il Valencia, che finché è rimasta a grossi livelli in Champions League ha potuto conquistare queste fette di montepremi accedendo ai quarti o in semifinale, è riuscita a mantenere, diciamo, un certo equilibrio tra costi e ricavi. Il momento in cui ha avuto un paio di stagioni sfortunate dal punto di vista sportivo, ha accumulato debiti per oltre 510 milioni, stava costruendo il famoso stadio privato, cioè, di cui tanto si parla in Italia, ha dovuto bloccare i lavori, certo, e si parla appunto sempre più spesso in Spagna ormai di una sorta di fallimento pilotato che dovrà accompagnare il Valencia e le altre squadre verso appunto una, se non la scomparsa del Valencia in quanto squadra di calcio, almeno della società che la gestisce attualmente, con una poi vendita o trasferimento del titolo sportivo a una nuova società che subentra, vicende che conosciamo, ahimè, benissimo in Italia e per sfortuna o per fortuna a seconda dei punti di vista ormai si stanno per diffondere anche in altri paesi. Bene, la Coppa in controluce direi che finisce qua per oggi, perché so che gli argomenti non mancherebbero. Sono tanti, ma avremo modo in altri momenti. Fin dalla prossima settimana proprio di tornare su questi aspetti. Torniamo in onda in tempo per ripassare la storia e affidarci quindi alla memoria di Nicola Filippone. Sembra ieri. 28 maggio 1969, secondo trionfo in Coppa dei Campioni per il Milan di Nereo Rocco, dopo quello ottenuto 6 anni prima a Wembley contro il Benfica. Stavolta al Santiago Bernabéu di Madrid, i rossoneri, trascinati dal genio di Rivera, puniscono il calcio spregiudicato dell'Ajax del giovane Cruyff con un severo 4-1. Pierino Prati si conferma bomber inesorabile con una tripletta, mentre Sormani realizza il gol del 3-1, fondamentale perché spegne le speranze di rimonta degli olandesi. Solo due giocatori sono stati in campo sia nella finale di Londra del 63 che in quella di Madrid del 69, Gianni Rivera e Giovanni Trapattoni. Già, 40 anni fa. C'è un ascoltatore già collegato, poi dobbiamo sentire ancora le voci. Fabio Padova, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, complimenti. Io volevo intanto fare i complimenti al Barcellona alla Porta per aver creduto su un allenatore giovane senza grossa esperienza a livello internazionale, e allo stesso Guardiola per aver, da buon tifoso milanese, per aver ricordato Maldini per primo. E dopo volevo più che fare una domanda, fare un auspicio che le squadre italiane, più che imparare magari dal Real Madrid a spendere i soldi, imparino dal Barcellona. E io credo che in Italia, ho visto che ho la fortuna di avere Sky, ci siano dei bravi giovani come Allegri, che ho visto un Cagliari giocare bene, un Giampaolo, e spero che insomma provino anche loro a puntare su qualche allenatore giovane, e più che altro ai settori giovanili che ormai hanno abbandonato. Ma come vediamo ieri, una squadra come il Barcellona, che secondo me ha la panchina più debole d'Europa, perché credo che le altre squadre abbiano dei giocatori in panchina più forti di quelli del Barcellona, hanno giocatori che sono molto attaccati alla maglia e quindi hanno potuto vincere, diciamo, tre competizioni in un anno, quando che da noi di solito a inizio anno si comincia a dire punto a quella o punto a quell'altra, e di solito diciamo che fisicamente è impossibile vincere tutto, invece gli stessi 11 giocatori possono benissimo vincere tutto quello che vogliono. Sì, no, no, non proprio 11, ma hanno sfatato anche questa leggenda, il Barcellona. Sì, non diciamo, solo. Esatto, che comunque non, non hanno solo, ma sicuramente a esatto, livello delle, ma partendo, partendo anche dai preliminari, tra l'altro, che quindi significa aver allungato la stagione ancora di più. Mi pare che il Barcellona abbia giocato la prima partita il 12 di luglio. Fabio, grazie, è molto bello quel parallelo con Allegri. Allegri effettivamente, anche per cultura, adesso poi al di là delle qualità calcistiche, al di là di Cossu, Biondini e Daniele Conti, che sono tre signori giocatori secondo me, ma che non sono Xavi, Iniesta e Messi, al di là di queste differenze mi sembra che abbia anche le stimmate del signore a sua volta, Allegri, esattamente come ce l'ha Pep Guardiola. Questo sarebbe un bel valore aggiunto. Sentiamo un'intervista ad Evra, anzi sentiamo Evra che parla di Guardiola. No, io penso che tatticamente Guardiola è stato forte, perché io mi aspettavo veramente Messi. Un momento l'ho guardato Messi, gli ho detto: perché non vieni da mia parte? Perché io avevo preparato questa partita e dopo, diciamo che se guardi bene i primi 10 minuti potevo andare avanti, perché Messi non mi segueva. E dopo, quando hanno messo Eto'o, ero più difficile, perché Eto'o difende e attacca anche. Penso che questa è stata una grande scelta tattica per la mia partita. E sì, ha cambiato il mio modo della partita, sì. Che le cose le dice, insomma, no? che non sta a nascondersi dietro un dito, e mi pare che questo complimento, prima indiretto e poi diretto in realtà all'allenatore avversario, cioè a Guardiola, sia molto significativo. Silvio ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Ecco, volevo unirmi al coro delle persone che hanno elogiato Guardiola, che secondo me ha scritto una pagina da libro cuore, ha riparato anche, diciamo, alla stupidaggine che hanno fatto dei quattro imbecilli nei confronti di Maldini. E in più io sono un interista sfegatato, ecco, diciamo, ho apprezzato molto questo tipo di comportamento rispetto a quello del nostro Volpigno, perché sono rimasto molto male riguardo a quel gioco di sponda fatto su quelle presunte offerte del Real Madrid. Quindi spero anche che il nostro Massimo Moratti, che è un presidente che si inquadra perfettamente negli atteggiamenti di passione, di correttezza di Guardiola, prima o poi dia un pugno sul tavolo e cacci tutta quella gentaglia tipo Volpigno, ovvero Mourinho. Gentaglia è un po' forte, direi. Furbigno, Volpigno va bene, Gentaglia mi sembra un po' eccessivo. L'appuntamento col Giro d'Italia e quindi la sigla. Voci dal Giro. Oggi vi dovete accontentare della mia raffreddata, per giunta, come voce dal Giro, nel senso che abbiamo un problema tecnico di collegamento con il nostro inviato al Giro, e allora vi informo sulla tappa, che è in corso di svolgimento, che non ha ancora fatto registrare fughe particolari, che è partita da Sulmona stamane e poi arriverà a Benevento presumibilmente in volato, al massimo con un gruppetto in fuga, ma soprattutto speriamo bene che questi segnali per ora lontani e comunque già vagamente inquietanti sul conto di Menchov, cioè sul conto della maglia rosa, siano destinati a evaporare, perché insomma, un titolo della Gazzetta di oggi dice: Menchov, ci sono guai in vista, potrebbe essere ascoltato nell'ambito dell'inchiesta doping che riguarda il laboratorio Human Plasma di Vienna. Ora il russo ha assolutamente, questa storia non ha nulla a che fare con me, ha spiegato, perché la squadra è stata contattata soltanto per documentazione, noi non c'entriamo, vogliono una nostra testimonianza che riguarda altri. Insomma, lo speriamo vivamente. Se non fosse il ciclismo, se non riguardasse il ciclismo, diciamo che sarebbe più facile prestare fede e fare un atto di fede. Trattandosi del ciclismo, magari qualche sospetto, qualche rischio che qualcosa si possa avverare in più è lecito. Speriamo di no. Sigla. Voci dal giro in collaborazione con. Il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere il nuovo Transit Connect Turbo Diesel Common Rail a 6.500 euro. Il Barça avrà una brutta panchina, scrive Daniele, ma Thiago e Poulsen li scambierei col più triste di loro. Beh, tutto sommato anch'io. Infatti io non sono tanto d'accordo sul fatto che il Barça abbia una brutta panchina. Il Barça ha una panchina di gente, certamente non all'altezza di altre panchine, però di gente utile, e proprio perché è utile, è una vecchia teoria berzotiana che se il titolare ha bisogno anche ogni tanto di essere tranquillo, no? e di non sentirsi insidiato a ogni piede spinto. Quindi il fatto che ci sia una discreta distinzione di rango tra titolari e riserve, entro certi limiti, per come può esserci nel calcio di oggi, non è detto assolutamente che sia un male. Non facciamo più in tempo ad ascoltare un'intervista a Giggs, peccato per questo triste tramonto in Coppa Campioni per Giggs, non so se avrà un'altra occasione, ne dubito. Grazie a Peter Bescapè in regia, grazie a Flavio Suardi in redazione, Giornale Radio.